ricordi un ricordo lontano che ha perso contatto, il rumore di fondo di un pensiero distratto, muto e sepolto dalla vita e la polvere. E ora che senti il sangue inciallire dentro le vene, lo sguardo in letargo, il cuore in catene, lo senti tornare con una voce che sta urlando: scappa di qua. Tempo di evadere da questa mente di gesso, dove non c'è mai stato spazio per me stesso. Ora so che posso, come uniche armi, illusioni e desideri discordi, ma in faccia una meta alle spalle, i ricordi che conserverò, anche se adesso un'altra storia comincerà. E resto un poco a chiedermi chissà chissà quale sia la strada giusta, la strada che arriva più là, oltre la morte, oltre l'orizzonte, ancora per miglia voglio arrivare così vicino al sole da bruciarmi le ciglia e non fermarmi neanche là. Sono stufo di queste parole, di questo brusio su cosa è giusto per me, su come cammino, sul mio vero io, di un mondo che non sa pensare per sé. Stufo di merce e mercanti in questa fiera di perché, cerco una primavera che ho capito non verrà da sé. Ma tu tieniti pure le tue sicurezze di clausura e la tua vita schiava di ciò che sfugge a una censura, che sei il primo ad accettare in fondo a via dei rimpianti fra quattro mura di viltà, pareti di invidia, un tetto di paura. Scusa ma non mi sento a casa, io ho perso mille battaglie, più di un momento, ma in questa guerra di perdere o pareggiare non mi accontento, fino a che respiro ancora. Tutto il mio mondo son sogni di ghiaccio nel vento, e non starò a guardarli sciogliersi al sole del tempo, prima di aver tentato una volta ancora, perché ho già visto come finirà e forse non lo accetto più. Ultima istanza per la libertà, senza ricorso in appello, lieve speranza che diviene già inarrestabile certezza.